Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Franco Piantanini in redazione, Roberto Scaltritti in regia. Sentiremo, cari amici, rimbalzare la palla a spicchi come ogni venerdì, ma dopo le 14.30 la palla a spicchi la sentiremo per tutta la stagione. Questo è solo un anticipo della stagione ufficiale che partirà con insieme al nostro campionato. Intanto diamo la cronaca dei mondiali di atletica con il giavellotto donne vinto dalla russa Bakumova, quindi il peso maschile oro al tedesco Störl. Quarto titolo iridato nel lungo per Phillips e Campbell Brown ha vinto i 200 metri femminili, questi risultati attualmente in nostro possesso. E poi c'è invece una buona notizia per l'Italia che non arriva ovviamente da Daegu, dall'atletica, ma arriva da uno sport in cui siamo ancora forti, cioè il canottaggio. Ci sono un oro e due medaglie d'argento ai mondiali che si svolgono a Bled in Slovenia per gli italiani. L'oro è del 2 con, mentre l'argento è del 4 senza pesi leggeri e del singolo pesi leggeri di Pietro Ruta. Questo per la cronaca. Intanto non è ancora cominciata la scuola, non abbiamo visto neanche un calcio vero al pallone, ma a meno di non considerare calci veri, ma io mi rifiuto di farlo, mi rifiuto anche di parlare di Faroe Italia, a meno che voi non ne abbiate voglia. 800 24 00 24 numero verde, messaggio SMS 349 238 6666. Ripeto, dopo la mezz'ora, insomma, apriremo il capitolo anche con voi delle miserie del basket italiano, che ha perso le prime due partite degli europei in Lituania, la prima contro la Serbia, vice campione d'Europa in carica. Magari era preventivabile, qualcosa di meglio ieri si poteva anche vedere, secondo me, contro la Germania. Però dicevo, non abbiamo visto ancora nemmeno un calcio vero al pallone, per questo bisognerà aspettare ancora una settimana, quando ci sarà l'anticipo degli anticipi, cioè venerdì prossimo, Milan-Lazio ad aprire il campionato, perché non ho grossi dubbi, non so voi, che il contratto collettivo dei calciatori verrà inchiostrato con questo escamotage del contratto Ponte, che peraltro era stato proposto da Tommasi esattamente una settimana fa, con un po' più di buona volontà ed evitando delle prese di posizione volontarie da parte della Lega. Secondo me si poteva anche giocare la prima di campionato. Comunque non abbiamo visto ancora nemmeno un calcio vero al pallone, non è ancora cominciata la scuola, però io di pagelle francamente non ne posso già più. Quanto le diamo a questa? Vogliamo fare 47? Già, morto che parla. 47 morto che parla. Qual è il vostro giudizio? Avrete letto commenti, pagelle, ranking, eccetera, eccetera, sulle squadre che sono uscite dal mercato. Qual è il vostro giudizio? Il mio è che sono tutte sotto il 6, tranne il Milan e il Napoli che si sono rinforzate, la Juventus forse. Magari la Lazio, che è andata sull'usato sicuro, essendo di manica larghe, magari con un po' di lungimiranza. La Roma, che ha speso tanti soldi, ha preso giocatori molto giovani e un allenatore molto giovane che mi convince zero, vi dico la verità. Non lo so, secondo me sono solo queste forse. Ma lo chiedo anche a mio amico Paolo Bargigia da Mediaset. Ciao Paolo. Ciao Carlo, quanti interrogativi, riusciremo a risponderti? No. No. Però ci proviamo. Senti, tutti a parte gli scherzi, dicevo, tutti sotto 6 tranne Milan e Napoli, che si sono rinforzati onestamente, guarda, non di tantissimo. Allora guarda, io non la penso proprio come te. E forse anche un bene, no? Ma perché certo, se no ci annoiamo. Allora, il Milan non mi ha assolutamente esaltato. È un mercato sicuramente coerente con le disponibilità economiche basse o nulle che la proprietà poteva disporre. E quindi è un mercato che può servire a mettere delle pezze per continuare a vincere in Italia, ma sicuramente non per avere un profilo europeo. Questo sicuro. Però il Milan è leggermente più forte, almeno si sono aggiunti Nocerino ed Aquilani. Perché parte più avanti rispetto agli altri. Ti dico una cosa, nella mia analisi io non sono certo quello che dice chi ha più speso è stato più bravo o chi ha più speso vince sicuramente, e non do un giudizio su questo, però anche sui giocatori del Milan, a parte che sono stati tutti, come ti dicevo, operazioni da saldo, ma poi Taib e Mexes a costo zero. Il Milan ci aveva abituato molto allo champagne e ai lustrini, però se vuoi, anche non rincorrendo queste cose, mi sarei aspettato qualche ideuccia in più per ringiovanire la squadra, cioè qualche giovanotto talentuoso che non sono Taib e Mexes, e poi di quelli arrivati forse l'unico titolare, forse, potrebbe essere Taivo in partenza. Sì. Questo è sul Milan, però vedo che sul Milan ci sono pareri discordanti, molti apprezzano il mercato del Milan. Ma se non altro perché ha aggiunto qualcosa rispetto all'anno scorso senza perdere nulla, sono d'accordissimo sul fatto che non è una squadra competitiva per la Champions League, però no, sarebbe servito intervenire in maniera profonda e poi se vai a leggere non possiamo farlo in Italia, no, nel nostro calcio italiano non ha la forza e la pilla per competere in Europa in questa fase storica. E il Milan, diciamo che è stato comunque coerente col disegno finanziario di questa stagione, ecco, questa è sicuramente una cosa positiva. Poi io trovo molto positivo il mercato del Napoli, perché veramente ha fatto due squadre, ma dando l'impressione proprio di prendere giocatori veramente utili al calcio di Mazzarri. Vale a dire, se fatto male Britos, non è che hanno preso un difensore a caso, hanno preso un difensore di piede sinistro per giocare nella difesa a tre. Il punto debole era il centrocampo, l'hanno rinforzato con i titolari e con le riserve. Il colpo Pandev, quando sembrava che i tre là davanti fossero intoccabili, invece dimostra acume. E tra l'altro, insomma, un mercato che è stato fatto su prezzi di mercato normali, abbastanza europei, insomma. Inler è quello che è costato di più, è costato 15-14, ecco. La mia domanda è, Paolo, Mazzarri sarà in grado di gestire una rosa ampia? Secondo me se l'hanno fatto sì, più che altro dovrà essere bravo a capire il calcio europeo, cioè a non a riuscire a gestire le motivazioni in Champions, perché l'anno scorso ha buttato via il cammino in Europa League quasi snobbando la partita col Villarreal, tenendo Cavani in panca perché dopo tre giorni c'era Milan-Napoli, no? Ecco, deve essere una crescita più che altro di mentalità, più che gestione degli uomini. A me, contrariamente a quello che dicevi, invece è piaciuto molto il mercato della Roma, e ti spiego perché. Perché è un mercato fatto di giocatori giovani che hanno le caratteristiche per interpretare un calcio molto europeo e moderno. Mi riferisco a Pjanic, mi riferisco a Bojan, Kjaer, che ha sostituito Mexes. Ecco, il problema della Roma invece è Totti, perché praticamente si trovano con un totem ingombrantissimo. Chiaro. Dal punto di vista mediatico, finanziario, eccetera, che per caratteristiche, per età e per spirito di sacrificio non si sposa con questo progetto di calcio stile Barcellona, no? Poi ci riempiamo la bocca, però l'idea è quella, no? Un allenatore del Barcellona B, una squadra che gioca palla a terra e una squadra che corre. Certo. È chiaro che non è colpa di Totti, però Totti è ingombrante in questo progetto e ce l'hai, però non puoi fare un calcio di corsa negli spazi senza palla con Totti, che uno è abituato da sempre ad averla sui piedi, a fare anche magie quando era più giovane, no? Bisogna però spiegarlo alla gente, perché a questo punto mi sembra che Luis Enrique sia già in seria difficoltà, un paio di partite di campionato e poi con Totti col muso si arriva, ho l'impressione, alla resa dei conti. Dunque adesso, dopo aver promosso con Paolo Bargigia il Napoli, aver mezzo bocciato il Milan, aver promosso la Roma, però a questo punto, ma Inter e Juventus, il voto di Inter e Juventus? Sacchi! Che cosa sto spiegando? Professore, Sacchi, 3. Paolo, i ragazzi della terza C. Ah, scusami. Eccomi qua. Allora, Inter e Juventus. sono onesto, il mercato dell'Inter non mi è piaciuto. Ecco, la premessa che c'è stata una svolta per la prima volta veramente da quando Maratta è padrone dell'Inter, cioè non possono più spendere. Quindi se tu hai visto, hanno fatto operazioni riducendo al massimo i costi, cioè sì. Forlan secondo me è un acquisto che non ha prospettiva, certo, perché ha 32 anni, certo. È un acquisto fatto sulle sue glorie passate, e comunque sostituire uno che parte di 31 con uno di 32 mi sembra certo non una cosa di gran prospettiva, e soprattutto quando tu hai già una squadra piuttosto vecchiotta con Zanetti, Maicon, Milito, eccetera. E Zarate non discuto il valore assoluto, però nei progetti era una terza scelta, perché per Gasperini c'erano Lavezzi e Palacio, e poi Zarate veniva per ultimo. Poi c'è questa, secondo me, incoerenza di fondo, perché qual è la scelta? È la linea verde per ringiovanire la squadra, o è di tutto un po' rispetto, insomma, a quello che si poteva arraffare? Perché Poli mi sta bene, Alvarez e Castagnos mi stanno bene, però Alvarez e Castagnos mi sembrano già bruciati e non so neanche se li vedremo ancora in giro, no? Sì, non... esagero, però non, mi sembrano fenomeni, in tutta onestà. Alvarez 24 anni, giocava nel campionato argentino senza essere titolare nemmeno fisso, ma capisci, il problema è che noi continuiamo a riempirci di stranieri, e in Sud America sono bravi a reclamizzare i loro prodotti, e noi, anche per opportunità contabili, mettiamola così, continuiamo a prendere stranieri, troppi, perché poi si è visto nel precampionato, Obi, che l'Inter ha preso dal Parma quando era negli allievi nazionali, cioè ha fatto vedere di valere due volte Alvarez in questo precampionato, capisci? Sì, sì, sì. Castagnos, sì. Quello che abbiamo visto, non vale più di Mattia Destro, che quest'anno partirà titolare forse al Siena e che ha solo un anno più di Castagnos. Quindi io non trovo una coerenza nel mercato dell'Inter, trovo invece una feroce determinazione e coerenza di Moratti nell'austerity, perché se ci fai caso, con Forlan sono riusciti a farsi scontare un po' di soldi sull'ingaggio. Sì. Zarate ha rinunciato a 300.000 euro netti a stagione per 3 anni. L'Inter una volta era munifica, no, sugli ingaggi, e quindi secondo me una sufficienza però stiracchiata. Sufficienza, e poi mi hai chiesto la Juve. Sì. Ma guarda, la Juve ha recuperato molto alla fine, assecondando le richieste di Conte, il progetto, sì, di Conte, quindi intervenendo molto sugli esterni. Tieni presente che secondo me, a parte quella fase iniziale in cui si sono fatti un po' tradire dalla voglia di far dimenticare la brutta stagione passata e continuavano a pompare nomi imprendibili, no? Tevez, ti ricordi, Benzema, Agüero. Ma no, ma guarda che, cioè, su tutti questi nomi, il colpo mancato della Juve, facciamo la lista che vuoi, alla fine secondo me Vucinic vale questi, cioè Vucinic assolutamente. Guarda, la Juve prende 7 nel mio mercato, perché comunque, anche secondo me. Sì, anche sì, perché me. Guarda, Vucinic, Lichtsteiner, lo stesso Elia da verificare, Vidal, secondo me sono ottimi giocatori, e c'è anche un rapporto di qualità-prezzo, credo, perché la Juve alla fine non ha fatto operazioni da 20-30 milioni, ma è rimasta al massimo a 10 milioni con Vucinic, quindi c'è coerenza, e finalmente nelle ultime settimane hanno assecondato Conte prendendogli 3 esterni, no? Eravamo un po' sorpresi quando continuavano a cercare punte o centrocampisti, e invece questi sono esterni che hanno le caratteristiche potenziali e stare d'attacco per Conte. Sì. Quindi la Juventus secondo me ha fatto un buon mercato, un bel mercato, ecco, speriamo che diano a questo punto il tempo a Conte di esprimere il suo gioco. Certo. Paolo, io ti ringrazio, come sempre. Grazie a voi, un abbraccio. Grazie a voi. Ciao, grazie. Carlo, grazie. Buona ciao. Grazie a Paolo Bargigia. È chiaro che per spiegare Tra poco cominciamo a parlare con gli ascoltatori, eh? 800240024, abbiamo una decina di minuti, certamente poi dopo la mezza apriamo un capitolo Palaspicchi, come detto. Però per spiegare il mercato del Palermo invece bisognerebbe andare davvero ai numeri negativi. Poi vi faccio sentire uno Zamparini prima e dopo nel montaggio di Franco Piantanida. Mauro, buongiorno. Buongiorno a lei, complimenti per la trasmissione. Grazie, a lei e a tutti i suoi collaboratori. Grazie. Volevo solo fare una notazione, così se vogliamo di colore, collegandomi un po' anche a Palaspicchi, nel senso che io sono cantorino. Negli ultimi due anni, nelle pagelle della Rosea, sì, Cantù era sempre data in terza o quarta fascia. Sì. L'anno prima è arrivata in semifinale, l'anno dopo è arrivata seconda nel campionato. Sì. Cioè a dire che le pagelle, spesso fatte anche da gente espertissima, di vedere le squadre in campo, sono un bellissimo gioco. Chiaro, ma sono un divertismante, perché lo facciamo tutti. È esattamente come il calciomercato. No? Ma sì, ma ci stiamo divertendo. Poi Bravo. Dopo vedremo le squadre sul campo, perché veramente gli ultimi due anni, per faccio l'esempio che mi è vicino, hanno veramente toppato, per esempio, su Cantù. Sì, ma Cantù è una squadra vera che non ha fatto un mercato inseguendo le superstar, inseguendo le starlette lustrini. Bravo, ha preso i giocatori che servivano. Ecco, l'altra cosa è questa, che spesso, come fa gli errori, per esempio, che ha fatto Milano, forse non quest'anno, ma aspettiamo a vedere il campo, gli errori che ha fatto Milano nel basket, che fanno spesso le squadre di calcio, è di riempirsi di grandi nomi e non guardare invece alla miscela, a come i giocatori stanno insieme e anche alle qualità umane, perché io vedo che spesso nelle squadre di calcio le qualità umane, avete parlato prima di Totti che potrebbe essere quest'anno un problema nella Roma, abbiamo visto qualche anno prima delle vittorie i problemi che aveva lo spogliatoio dell'Inter, eccetera, le qualità umane sono molto importanti. Io credo che per esempio sia una valutazione che spesso non si fa, quella sulle qualità umane dei giocatori. Sì, no, è chiaro, devi inserire giocatori in un gruppo e dunque devi tener conto anche di queste cose, non c'è dubbio. Ad esempio a Cantù sono molto attenti, e non solo a Cantù, sono molto attenti anche a questo aspetto. Però un conto è mettere insieme una rosa di 12 giocatori di pallacanestro, un altro è mettere insieme quelle rose mostro che oggi, secondo alcuni, secondo me non così necessariamente servono nel calcio. Michele da Torino, buongiorno. Buongiorno, torno un attimo al calcio. Ma che sì, faccia pure, che voto dà al mercato del Palermo? Servono i numeri negativi qui? Io? Sì. Sì, effettivamente negativo, perché ha venduto un po' troppi giocatori e prendendo pochissimo. E a quello della Juventus invece? Ma io sono in sostanza d'accordo con il suo collega di prima, mi trovo abbastanza d'accordo in generale, sia con quello della Juve che con quello del Napoli. Due cose volevo dire, mi ha colpito l'Atalanta, che ha fatto due o tre acquisti abbastanza azzeccati, sì, che è una squadra di seconda fascia. E poi il mercato dell'Inter, che si apre a delle discussioni non poco indifferenti, perché il problema Snyder è un problema. È il vero nodo del discorso. Perché... Ma io credo che Gasperini adesso è con le spalle al muro, perché Moratti non ha voluto commettere l'errore, secondo me, con Benitez, che si lamentava di non aver comprato i giocatori. Gli ha comprato i giocatori, però è chiaro che gli ha tenuto anche Snyder e adesso i risultati li deve portare. Perché... Ma mi devono spiegare perché Wesley Snyder in 12 mesi è passato dall'essere praticamente il giocatore più forte del mondo, uno dei 5 giocatori più forti del mondo, all'essere un problema nell'Inter. Questo me lo devono spiegare. È chiaro che la sua stagione... Ma è più importante il modulo che l'allenatore ha in testa o i giocatori che ha a disposizione e che deve rendere funzionali a un certo modo di giocare? Perché non mi possono venire a dire Snyder ha un problema perché non so dove metterlo nel 4-3, perché questo è inaccettabile. Cioè, voglio dire, lo stesso discorso può in parte valere per Conte, che ha voluto questa grandinata di esterni. Poi c'è il caso Ziegler che è tutto da morire da ridere, Ziegler preso da Marotta la scorsa stagione, buon affare, parametro zero, eccetera eccetera, adesso a Conte no, non mi piace, preferisco De Ceglie grosso, questo tanto non lo faccio giocare, allora Ziegler senza giocare nemmeno mezza partita viene ceduto in Turchia eccetera. Però secondo me questo integralismo sui numeri e sui moduli non può essere condivisibile, e qui mi rifaccio l'esempio di Massimiliano Allegri, che l'anno scorso arrivò, ha pure le sue idee di calcio, l'anno scorso arrivò, gli dissero guarda che Ronaldinho gioca, lui più altri 10, e lui disse vabbè adesso vediamo, e con grande intelligenza è riuscito a costruire una squadra in cui si è dimostrato che Ronaldinho non serviva a nulla, a costruire una squadra funzionale ai giocatori che aveva a disposizione, e ha vinto lo scudetto, e quest'anno parte nettamente in pole position, perché probabilmente la grande verità che esce da questo mercato, la grande notizia, non è una verità, è una notizia secondo me, è che l'Inter non è più la squadra più forte d'Italia. In questo momento la squadra più forte d'Italia, al di là dello scudetto che porta sulle maglie, è il Milan. L'anno scorso si disse ok, lo scudetto l'ha perso l'Inter, e il Milan è stato bravo a raccattarlo. Ebbene, quest'anno il Milan è la squadra più forte d'Italia, si è rinforzato il Milan, non è competitivo a livello di Champions League, e anche qui parentesi, ma avete sentito di Inzaghi escluso dalla lista Champions del Milan, e con Inzaghi anche El Shaarawy per far posto a, serviva un centrocampista in più, ha detto Allegri, e ha inserito un giocatore della primavera, questa è quindi il re del gol europeo Pippo Inzaghi, chissà con quale rabbia guarderà dalla tribuna le partite di Champions League del Milan. Milan che non è competitivo a livelli di Champions, è certamente però la squadra più forte in Italia, ai nastri di partenza cominceranno le verifiche dopo i voti anticipati del mercato. A proposito, io voglio farvi sentire, prima di fermarmi un attimo, Zamparini prima e dopo, all'inizio dell'estate e alla fine dell'estate, con Pioli. Luglio, col bene che ti voglio, vedrai, non finirai. Sì, ho fatto secondo le mie credenze, come prendo i giocatori giovani, ogni tanto bisogna cambiare, io veramente cambio un po' troppo spesso gli allenatori, questo penso resterà con me parecchio tempo, glielo auguro a lui e me lo auguro anch'io. Settembre poi verrà, ma non ti troverà, e piangeranno solo gli occhi miei. Pensavo di avere un ottimo feeling tecnico come allenatore, purtroppo vuoi con la preparazione anticipata, vuoi con le partite di UEFA andate male, vuoi soprattutto con le prestazioni che ho visto con l'occhio mio della squadra, io ero terrorizzato e ho detto quest'anno retrocediamo. Ma non ti troverà. A proposito di robe da morire da ridere, sta diventando un'ossessione, abbiamo le pagelle perfino negli spot, come avete sentito. Questa interrogazione non sa da fare, mi metta 4 e non ne parliamo più. E perché 4? Mazzaretti? 2. Tra poco passiamo al basket, anche lì daremo le pagelle all'Italia. No, forse meglio di no, aspettiamo che finisca il girone. Oggi alle 16.45 c'è la Lettonia. Vittorio da Parma, Alessandro da Roma, buongiorno Vittorio. Ciao Carlo. Ciao. Ci risentiamo dopo il passaggio di Hamsik non avvenuto al Milan, la cosa sì, che mi fa veramente molto felice. No, io ti ho chiamato per un altro motivo che ci puzza un po'. Io non so se tu hai visto le quote da quanto riguarda la vittoria del campionato, e la Juve viene data a 6, un po' che voce, e Napoli a 15. Adesso io mi chiedo, se è perché la Juve ha un nome, la cosa ci può anche stare. Però ci potrebbe essere anche un'altra cosa. Cioè? Non è che i bookmaker sono convinti che prima o poi la Juve questo scudetto lo deve vincere per forza? Questa è la domanda che faccio io? Ma per forza no. Per forza non credo. No, non credo che i bookmakers arrivino a tanto con la dietrologia, anche se sono dei diavoli dell'inferno. Però insomma, non so dare una valutazione su queste quote. Io vedo una Juventus più forte dell'anno scorso, ma d'altra parte ha inserito Pirlo, che rimane comunque un top player a livello internazionale, e penso che rimarrà a questo livello se non lo spremono come un limone, cosa che avverrebbe probabilmente con il modulo integralista che Conte ha in mente, perché immaginatevi Pirlo e Vidalli davanti alla difesa dopo 2 mesi, dopo due mesi devono uscire dal campo in ambulanza, insomma. Comunque ha inserito Conte, ha inserito Vucinic, che è un altro giocatore che a mio parere non ha nulla da invidiare a quei nomi che sono stati scritti per un sacco di tempo, da Agüero a insomma, avrete tutta la lista in mente, no? Ai più fantascientifici come Nani, e poi di chi si parlava, da altri per la Juventus, di tutti quei nomi. Tevez, giocatore più sopravvalutato del pianeta secondo me, a quelle cifre, perché 50 milioni per Tevez secondo me sono una follia assoluta. Ebbene, Vucinic non ha nulla da invidiare a questi. Io credo che se Conte riuscirà ad essere, a gestire come si deve Giuseppe Rossi, sì, a tutti quelli che avete detto accostati alla Juventus, ebbene, secondo me Vucinic non ha nulla da invidiare a questi. Se Conte riuscirà ad essere meno integralista nella stesura del suo modulo, se riuscirà ad adattarsi e ad adattare la squadra alle caratteristiche dei giocatori che ha, sono in attesa di capire insieme a voi quanto vale realmente Krasic, che secondo me rimane un ottimo giocatore, che l'anno scorso fece un buon girone d'andata, per poi scoppiare come un palloncino insieme alla Juventus nel girone di ritorno. Ma non dimentichiamo che arrivava da una non stop totale, uscendo dal campionato russo per tuffarsi poi in quello italiano, quindi l'anno, la stagione in cui valutare Krasic sarà questa. Insomma, non mi sembra una cosa così pazzesca quotare, non so se a 6, a 8, quello che volete, lo scudetto della Juventus. Alessandro da Roma, buongiorno. Buongiorno. Dica. Senta, io volevo fare una considerazione sulla formazione dell'Inter, tenendo conto che secondo me Gasperini l'ultima sera del mercato aveva avuto un attacco di mal di testa terrificante. Perché? Per Zarate? Per la quantità di attaccanti che a questo punto secondo me è quasi costretto a schierare, permettendo anche che secondo me la difesa a 4 è meglio di quella a 3, però sarà quasi inevitabile adottare il modulo della difesa comunque a 3 a centrocampo, un ispiratore che può essere Snyder e sì, 3 attaccanti a rotazione, ovviamente uno dei quali mi sembra un po' eccessivo. Sa Alessandro, mi sembra un po' eccessivo Snyder più 3 attaccanti, mi sembra davvero tanta roba. Ma è anche un attacco devastante, cioè sarà devastante, però se becchi 3 gol ad allacciata di scarpe come è successo nelle amichevoli, che contano quel che contano, però 3 anche dal Chievo, mi sembra che l'Inter abbia seri problemi di equilibrio, e mi sembra anche che insomma la difesa del Genoa l'anno scorso fosse la più battuta del campionato finché è rimasto Gasperini. È chiaro che lì il giocatore si era rotto, il modulo è molto offensivo, però bisogna trovare degli equilibri. Torno a ripetere, secondo me Zarate è un acquisto intrigante, interessante per l'Inter. Zarate può esplodere, può trovare la sua dimensione all'Inter, oppure può finire la sua corsa come giocatore ad alto livello. Sarà una stagione determinante per lui, vedremo quanto sarà motivato e quanta intelligenza avrà nel gestire l'occasione che gli si presenta. È chiaro che alla Lazio il discorso era finito. Zarate all'Inter, uno che salta l'uomo con grande facilità, che vede il gioco, che ha il colpo, che ha talento, non sarà titolare a mio parere, però è una scommessa interessante questa di Zarate. Certo, io in tutta onestà non la vedo l'Inter che lei ha disegnato con la difesa a 3, con 3 centrocampisti e Snyder dietro 3 punte, mi sembra davvero troppa roba. Adesso però io voglio sentire rimbalzare il pallone a spicchi. Palla spicchi. E lo sentiamo rimbalzare per la prima volta in questa stagione, ahimè, con il biglietto di ritorno già in mano. Non vorrei essere troppo pessimista, pertanto chiedo lumi anche a Stefano Valenti, che si trova per Superbasket ma anche per noi in Lituania. Ciao Stefano. Ciao Carlo, sei molto pessimista. Sono abbastanza pessimista. Beh, ma sai, no, non mi riesce di essere ottimista dopo, non ti dico dopo la sconfitta con la Serbia, dopo quella di ieri. Sì, guarda, le chiavi di lettura possono essere tante. Secondo me una di queste è che non è vero che l'Europeo è una partita al giorno. È una partita al giorno se la vinci. Se la perdi, se le perdi, devi cominciare a vedere la tua corsa nella totalità. È ovvio che oggi siamo al giorno all'ultima chiamata. Certo. All'ultima chiamata. E giochiamo contro una squadra ostica, una squadra fresca che ha talento, che sa far canestro, la nostra difesa non è impeccabile, mi aspetto una partita difficile perché anche l'anno scorso incontrando la Lettonia nelle qualificazioni facemmo fatica, al di là della sconfitta di Riga ma anche della vittoria poi abbastanza chiara di Bari, perché per diversi momenti il loro grande movimento sul campo, le situazioni di uno contro uno, la velocità con la quale muovono la palla ci creò dei problemi. Quindi quello di oggi è uno scoglio difficile, però la squadra è spalla al muro, la squadra deve vincere, deve dimostrare di essere una squadra, deve trovare linfa dai suoi leader e deve trovare un gruppo che aiuti i leader ad essere tali. Probabilmente non sono veri leader nel senso caratteriale della parola, però sono sicuramente buoni giocatori fanno sempre comodo. 800 24 00 24, se volete intervenire nella discussione. Stiamo dando numeri e pagelle oggi, Stefano. È chiaro che il voto all'Italia dopo le prime due partite non ha un gran senso e non può essere sufficiente, ma quello che ti chiedo, sei rimasto deluso dall'approccio dell'Italia a questo europeo? Guarda, io la riflessione che ho fatto sulla nazionale prima di partire è stata semplicemente quella di chi ha tenuto comunque a ricordare che siamo all'europeo per invito e siamo all'europeo da quinta squadra di fascia di questo girone e non sono banalità, sono verità. Questa l'anno scorso è una squadra che non si è qualificata con le proprie gambe per competere in questo torneo di alto livello. La presenza finalmente di Danilo Gallinari ci ha dato l'idea, la sensazione che questa squadra ovviamente fosse più forte di quella dell'anno scorso e quindi potesse competere. Ora, la prima partita contro i vice campioni d'Europa è stata per un paio di momenti, diciamo un quarto e mezzo, molto confortante, anche perché ad esempio abbiamo visto una nazionale che ha iniziato la gara col piglio giusto. Di solito i nostri inizi sono sempre stati molto negativi, molto molli, molto, molto soft. Quella con la Germania è una partita la cui lettura resta complessa e non c'è neanche tempo per farla in maniera compiuta, perché non abbiamo fluidità in attacco, tiriamo male, non c'è una regia al di là del discorso della leadership, non riusciamo a dare profondità al gioco perché il post basso di Bargnani non è la sua specialità, anche per obiettivi e limiti fisici, cioè la forza sulle gambe ad esempio. Nonostante tutto questo e nonostante l'impatto, vi garantisco non solo le immagini ma dal vivo la presenza in campo di Nowitzki che tira dentro la partita a Kemen come ha fatto ieri, è una cosa tangibile anche allo steward del Palasport e ripeto, non so se le immagini televisive lo raccontano, anche quando Nowitzki è in panchina è uno che si alza sempre per incoraggiare i propri compagni in campo, non sempre questo succede a noi. Ma chiuso la parentesi, quella di ieri è stata una partita in cui le prime tre punte hanno tirato con percentuali pessime, è una partita nella quale abbiamo catturato 10 rimbalzi in meno della Germania, è una partita nella quale abbiamo sbagliato liberi il momento cruciale, è una partita che a un minuto e mezzo perdevamo di 4 punti. Sì, io noto però, Stefano, che con la Serbia ci ha fatto un mazzo così McVan, ieri Kaman, il cast di supporto qualche volta in tornei così in cui giochi ogni 20 ore il cast di supporto e quindi la squadra può essere decisivo, forse più delle superstar. La squadra è decisiva come le stelle, faccio una riflessione forse ancora un po' più cruda, purtroppo i giocatori che ci stanno facendo male sono quelli che difensivamente si accoppiano con le nostre tre stelle offensive. Ed è un esempio che manca. E qui arrivi al discorso di Bargnani che facevi tu prima e che diventa un problema anche dal punto di vista dell'utilizzo e difensivo e offensivo. Sì, è ovvio che Bargnani ha una potenzialità offensiva notevolissima che non riesce fin qui a sprigionare nel suo gioco tradizionale e difensivamente può stare attaccato solo ai centri, però quando i centri sono veri e buoni i centri sono più forti di lui. L'idea che mi sto facendo di questa squadra è che i progressi visti l'anno scorso non sono diventati grandi progressi quest'anno. Sappiamo che c'è stato qualche problema in fase di di assemblaggio, in fase di chimica da trovare, che non si trova per miracolo qui giocando tutti i giorni, questo è fuori discussione. Oggi è la giornata in cui secondo me non si deve chiedere la bella partita, perché poi la bella partita non la gioca nessuno. La Serbia ha iniziato 1-7 adesso con Israele prima di riprendere la partita, diciamo, in controllo. Oggi bisogna rubarla, nel senso buono della parola, bisogna portarla via, bisogna rasserenarci tutti un attimo, anche certo. Perché ieri, dopo la sconfitta, ci sono state delle dichiarazioni non necessariamente polemiche, però di lettura molto diversa su quello che è accaduto in campo, e questo è un po' anomalo. Stefano, ti ringrazio, buon lavoro, alla prossima. Grazie a voi. Grazie a Stefano Valenti. Dopo il traffico, parliamo anche con gli ascoltatori. Alvise da Mestre, primo, 800 24 00 24. C'è anche chi scrive messaggi: ma senza un play e senza un pivot di ruolo, dove vogliamo andare? Questo è un discorso ormai vecchio come il mondo per quanto riguarda la nostra nazionale. Vero, vero. Poi discutiamo anche di quali playmaker ci siano in giro. È anche vero il fatto che anche in quel ruolo conta la stazza fisica, che l'abbiamo vista nella prima partita contro la Serbia. Ad esempio, un giocatore che è un ottimo giocatore come Maestranzi non può stare sul campo contro gente come Teodosic. Ma è un discorso prettamente fisico questo, che non può essere trascurato. Palla spicchi. Alvise da Mestre, buongiorno. Buongiorno. Dica. Allora, visto la partita ieri, sull'impegno, sulla grinta, niente da dire. Una grande partita difensiva, però non possiamo andare in attacco e non avere una minima idea di cosa fare. Perché tirare da 7 metri dopo il primo passaggio, posso farlo anch'io, facendo uno su 16 nei momenti belli. Sì, è un'Italia che non ha chimica. È un'Italia che non ha chimica. Dica. Ma eravamo a 51-49 palla in mano, e poi abbiamo fatto solo tiri da tre. Ce n'è stato uno buono di Mordente, mi pare, che è arrivato dopo una circolazione, sì, dopo un'azione che aveva senso. Il resto erano tiri del cavolo. Ed è accaduto anche il giorno prima contro la Serbia, no? Allora, voglio dire, poveracci, non è colpa di Bagnani, Bellinelli e Gallinari. Giocano l'NBA, sono bravi, fanno tutto quello che possono. Ma è possibile che non riusciamo a insegnare qualcuno a giocare? Poi le percentuali potranno essere basse, ma è la scelta di cosa fare in campo con la palla in mano che è devastante, sì. Perché la partita di tutti gli altri fanno delle cose sensate in campo, noi tiriamo, se va dentro potranno andare dentro, ma prima o poi 4 tiri sbagliati di seguito li faremo anche contro Israele, e alla fine rischiamo di perdere anche contro Israele se l'unica cosa che sappiamo è fermare i piedi e tirare la bomba e pregare Dio. So se mi sono spiegato. Abbastanza bene. È un'Italia che non ha chimica soprattutto offensiva, poi possiamo discutere dell'assenza di un playmaker di ruolo, eccetera, eccetera. È un'Italia che chiaramente vive di fiammate, di sprazzi, il famoso extra pass per liberare il tiratore, l'abbiamo visto forse un paio di volte in due partite, questo non ci piove. È anche vero che le squadre non si costruiscono, per il modo di lavorare di Pianigiani, che è quello di un grande allenatore di club, le squadre non si costruiscono nemmeno in 15 giorni di ritiro. Probabilmente ha ragione Pianigiani quando dice che abbiamo bisogno di giocare ed eventualmente perdere anche partite di questo tipo e sotto pressione per costruirci un futuro. Non dobbiamo nemmeno dimenticare che la stessa Serbia, vice campione d'Europa in carica, squadra tra l'altro giovanissima, ci ha messo 10 anni, ed è la Serbia con la tradizione che conoscete per ricostruirsi a questo livello. Di scorciatoie non ce ne sono tante. Andrea da Bergamo, buongiorno. Sì, buongiorno. Abbassi la radio, grazie, perché sennò sento il ritorno e non riesco a parlare. Telefono per la partita di ieri sera dell'Italia. Non sono proprio un grande intenditore di basket, però mi sono reso conto che all'inizio del terzo quarto l'Italia insisteva con i tiri da tre, sì, e non ne entrava neanche uno, non ne entrava. La Germania ha provato a fare un tiro da tre, non è entrato, ha iniziato a fare canestri da due e si è portata avanti. Sì. Di conseguenza io mi chiedo, è così importante nel basket di oggi il tiro da tre? L'ascolto per radio, grazie. Grazie a lei, Andrea. Sì, è forse eccessivamente importante nel basket di oggi, ed è anche un tiro che normalmente la difesa ti lascia prendere, perché comunque un tiro con percentuali che ha una percentuale inferiore rispetto a ovviamente andare a cercare tiri da sotto, quindi è anche più semplice quando non hai fluidità offensiva andarsi a prendere un tiro da lontano. Coach is back, mi scrivono dalla regia. Dan Peters. Ciao coach. Ciao, come andiamo? Eh? Non c'è male tu? Bene, bene. Buon settembre a tutti. Buon settembre anche a te, caro coach. Sentiamo di nuovo rimbalzare la palla a spicchi. Speravamo di farlo con risultati migliori della nostra nazionale. Sei deluso? Ma, è chiaro che come tutti speravano delle vittorie per l'Italia, però molto di questo secondo me mette a fuoco diverse cose che tutti parlano del giocatore italiano, quanti devono essere in una squadra, quelle lì, eccetera. E purtroppo nel bene e nel male per i giocatori italiani adesso c'è da proprio rimboccare le maniche e fare qualcosa per far vedere il loro vero valore, perché io penso che i tre NBA parlano abbastanza benino da soli, cioè, è dopo di loro che si trova in difficoltà la squadra. Quindi, cast di supporto, tu dici? Esatto, cioè io sono grande credente, io ho anche allenato la nazionale del Cile, ok, quindi è come ho scritto sulla Gazzetta l'altro ieri, una delle cose, fra tante cose, che ho imparato era che tutti devono fare qualcosa. Se io avevo come Simone Pianigiani 12 giocatori e la legge era questa qui: se tutti i 12 e facevo giocare 12 ogni partita, perché come questa manifestazione qua non c'è neanche per sogno un giorno di pausa, certo. Bisognava giocare ogni giorno, quindi una cosa stressante al massimo, non ci sono dubbi su questo, però non era il mio quintetto base necessariamente di Herrera, Arismendi e compagnia, Pando, Torres e Lorenzo Pardo. Quello lì era scontato, erano gli altri, Verdejo, Arancibia, che tutti dovevano darmi, Zarges doveva darmi qualcosa, cioè io dicevo loro prima della partita: oh, giocherete tutti, siamo in 12 e non 20 secondi, giocherete, dovete fare qualcosa, e quindi le partite che hanno dato qualcosa, abbiamo sorpreso Uruguay, tanto per dire, e le partite in cui c'era qualcosa in meno, abbiamo perso contro Colombia, mi ricordo, per 2 punti, 71-69, e se vediamo le parziali, con il quintetto base in campo abbiamo vinto, con il secondo il quintetto meno, sì. Era la seconda partita, ehi! Voi dovete fare qualcosa, ma non per cattiva volontà, okay, o mancanza di abilità, è che è stressante per loro, abituati loro a essere più protagonisti forse nel loro campionato, ad avere una diversa responsabilità, improvvisamente, boom, sono più responsabilizzato o meno responsabilizzato, sì. Vengono dalla panchina, non in quintetto base, tutta una cosa diversa per loro, e entrare in ritmo delle partite non è facile. Notavo, coach, che la Serbia con la tradizione cestistica che ci ha messo 10 anni per ricostruirsi ad alto livello dopo 10 anni di Pernacchi, lo sappiamo bene, serve tempo. Criticati da tutti gli ex nazionali, Danilovic, Djordjevic, Savic, hanno massacrato loro, i vari milici e compagnia, voi non avete orgoglio, cioè li hanno dato addosso, quindi queste e tutte le squadre che hanno risultati a livello della nazionale sono quelle che hanno lavorato per tirare fuori giocatori. Non dimentichiamo la Spagna, che adesso non dico che vincerà questo europeo, perché può succedere di tutto, che hanno già vinto uno, però la Spagna, la gente dimentica Gasol, Navarro, Garbajosa, tutti di quel gruppo che ha vinto il Mondiale Juniors nel 99, dico 12 anni fa, quindi hanno costruito non nel 99, prima ancora del 99, questo è il risultato oggi di 15 anni di lavoro. Certo, non basta prendere tre giocatori fortissimi che giocano all'NBA, metterli lì e dire ok, adesso abbiamo risolto ogni problema, perché non è così. Carlo, ti dico la cosa, che io non dico questo, la gente mi chiama, e perché ovviamente Peterson, tu sei del basket eccetera, così, e dicono: oh, e la nazionale, se rimangono fuori i tre dell'NBA, cosa fa? Se si deve fare la qualificazione. E questa è la cosa che i giocatori italiani devono fare. E posso rubare un secondo ancora, certo, Carlo? Naturale. Ok. Io e poi tutti parlano, i numeri americani e quelli, eccetera. E guarda, la gente dimentica queste cose. Nel 77-78 siamo andati da uno straniero a due stranieri, cioè da uno in quintetto base a due, da 20% del quintetto a 40%, da due che. E la gente, cosa succederà? ai giocatori italiani, spariranno così. È venuto fuori Vilalta, è venuto fuori Buonamico, è venuto fuori Antonello Riva, è venuto fuori Ario Costa, Roberto Brunomonte, Domenico Zappolini, Gilardi, e hanno vinto, hanno fatto il secondo posto alle Olimpiadi 80, tre anni dopo, e tre anni dopo di quello, nell'83, hanno vinto gli europei. Quindi io non voglio sentire questo argomento. La verità è che Elio Pentasuglia ha tirato fuori Bruno Monti e Zampolini, altri allenatori, Gianni Giomo tirato fuori Renato Vilalta, e ho avuto io il beneficio di questo a Bologna, ok? E quindi allenatori hanno tirato fuori il giocatore, questa è la cosa che rimane. Rubo un secondo ancora, non voglio sentire niente su Simone Pianigiani, ok? Perché non dimentichiamo che nel 92 un allenatore, Alessandro Gamba, Hall of Fame, è mancata la qualificazione olimpica, certo. Ettore Messina, che forse un giorno sarà Hall of Fame, nel 96 è mancata la qualificazione, nel 95 non ha fatto abbastanza, il quinto posto gli europei, non ha fatto l'Olimpiade nel 96, quindi lasciamo stare gli allenatori, pensiamo a sviluppare il giocatore e vediamo che la nazionale andrà molto meglio, che speriamo tutti. Grazie coach. Ciao amici. Ti abbraccio. Ciao. Ci sentiamo venerdì prossimo con coach Dan Peterson, noi invece ci risentiamo per riprendere tutti i discorsi di oggi, se ne avete voglia, domani pomeriggio dalle 5 alle 6 sarà con me, come spero ogni sabato quasi, Andrea Zorzi, per chiacchierare insieme. Io ringrazio Franco Piantanide per il lavoro in redazione, Roberto Scaltritti in regia. 16.45 c'è Italia-Lettonia su Rai Sport, Sat Rai Sport, insomma, visibile in digitale terrestre. Io la guardo, spero anche voi, e magari domani siamo qui a fare, ce l'auguriamo tutti, altri discorsi un po' più ottimistici. Ciao!